Dai ragazzi, tutti dentro. Alfa, siamo tornati, abbiamo distrutto un po' di chitarre, abbiamo fatto un po' di rumore, soprattutto abbiamo imbavagliato il Loris. Eppure riesce a far casino. Esatto, esatto. Vabbè, dai, lo liberiamo, dai. Vabbè, dai, solo questa volta. Ma sì, dai, sbavaglio. Vai. Beh, dai, ma è sopra. Cioè, ma tra l'altro, se potete evitare di mettermi sta roba qua, cos'è che è? Ovatta. Un calzino. È una roba... calzino. Ah, un calzino. Questo sì, avevo. Importante. Sì, un calzino importante. Un calzino veramente importante. E allora? A proposito di cose importanti, volevo dire che ci siamo ritrovati per questa nuova registrazione, il che è veramente importante. Yeah! Yeah! E le notizie sono sensazionali, direi di più. Cosa c'è di più di sensazionale? La musica che abbiamo messo. Allora, aspetta, di più no, di sensazionale no. C'è sionale, perché togliamo allora il senza. Oh, e signore, rimane il, quello. Che cosa gli avete dato da mangiare stasera a Loris? Non lo so. I calzini. È arrivato già mangiato. Sono arrivato già mangiato. E ho fatto un, non lo so, qualcosa di vegetariano, non ricordo adesso. C'era della salsiccia e vegetariana. Salsiccia vegetariana? Sì. Sì, ah, interessante. Di animale vegetariano. Io sono vegetariano, okay. Nel senso che mangio l'animale. Sì? Ragazzi, io devo spezzare questa lancia Delta. Lancia Delta nei confronti di questo grandissimo gruppo che abbiamo sentito, che è un gruppo che sto tenendo a battesimo e ne sono veramente fiero. Come si chiamano? Yacht Fiction. Budini molli, va bene. E come vedete i termini importanti questa sera si sprecano veramente. Sì, tipo battesimo. A battesimo. Tipo vegetariano? Che non è abbattesimo, è abbattesimo. Nel senso, è una un abbattere attaccato. Qualcosa. Abbattesimo. Esatto. È un bello, credo. Bello. Io credo nell'abbattimento di qualcosa, quindi sono credo nell'abbattesimo. Sono un abbacchio. C'è cristianesimo e l'abbattesimo e... Hai finito? L'esimo. Ecco. Allora, siamo stati via per un po' di tempo perché abbiamo avuto le nostre cose, poi ci sono stati i ponti. Che detto così, insomma, vabbè, non è molto bello. Diciamo che... Ma sono passate? Mille a posto? Anni. Ma devo dire la verità, c'è ancora il processo per Loris, se vi ricordate, quando l'avevano rapito lì ad Al-Qaeda. Lì. Sì, a mio comunque carico. Ha confessato e finalmente sono riusciti a prendere... Lo zio Osama. Zio Osama molto scontento adesso. Lui è molto morto anche. Non gli passa più la lampadina. Infatti. Però almeno ci hanno ridato il Loris finalmente. Abbiamo avuto. Sì, ce l'ha dato imbavagliato col calzino, però. Però vabbè, cosa dovevo fare? Eccoci qua a registrare un'ennesima puntata di questo Opencast Alpha, il podcast tecnologico idiota del GL Como. In studio con voi ci sono io, c'è lui. Lei e l'altro. C'è l'altro. Ma io mi chiedo, tecnologico, parliamo di tecnologia oggi? Sì. Oh mio Dio. Ah sì? È una novità. Non so, non mi ero preparato su questo argomento. Anch'io. Per esempio, tutti parlano di tecnologia LCD, ma LCD. Ci rendiamo conto che l'LCD è in giro dagli anni 90? No. No. Devo dire la verità, no. Ah, ma... ci rendiamo conto? Sì. Ma scusa, gli orologi che c'avevo a scuola io non erano già LCD quelli? Ma è un altro processo. Cioè il G-Tiger, senza far pubblicità che penso che non esista più. Il G-Tiger, cos'è che era? Non era mica OLED. No, credo. La retroilluminazione non era molto buona, facevo fatica la notte. C'era la lucina a fianco. Però devo dire che Mortal Kombat spaccava di brutto. Quando uscivano fuori gli stinchi, cioè praticamente la gamba rimaneva ferma fissa e usciva fuori uno stinco. Bellissimo. E un'immagine molto difficile da riprodurre in radio. Però no, prova a farla rivedere. Forse i nostri ascoltatori sì, facciamola rivedere, abbiamo la slide. Beh, qua si capisce. E poi hanno fatto anche le scarpe Jig Tiger. Le scarpe. Certo, avevano anche loro l'LCD. Sì, c'erano anche quelle con i LED. Quelle che camminavi e si muoveva lo stinco. Le lelli. Si possono fare pubblicità? No, non puoi. Ah, non posso? Non puoi. Volevo salutare la mia amica Lelli e la mia amica Kelly. Sono amiche tutte e due. Tutte e due. Sono ragazze illuminate. Vivono assieme? Sì, cugine. Cugine. E comunque stavo dicendo, parliamo di tecnologia o no? Sì. Ma non legato a scarpe. Neurologi. Parliamo neurologi. Neurologi. Allora parliamo dei neurologi. No, allora è la sezione vicino ai necrologi. Neurologi per dire questo, cioè necrologi questo è morto, neurologi questo è diventato è pazzo, scemo. Esatto. E quindi stanno facendo le sezioni una accanto all'altra. Allora, Android. Veramente basta. Non ne possiamo più. Ma poi torni. È uscito l'aggiornamento per l'Optimus One dell'LG e continuo a menarmi la mia Optimus One che è uscito l'aggiornamento. E fallo, no? Fallo. Ma non ci penso nemmeno. Perché? Ho paura. Perché? Di che cosa? E poi se succede qualcosa. Cioè l'hai già craccato, cioè già messo i programmi strani. Non ho fatto niente, però poi mi pare tutti i programmi, cioè devo fare un backup, che barba. Che strano. Però c'è di buono, hanno fatto una cosa buona, hanno risolto il problema degli SMS che li mandava ad altre persone. A caso? Sì, per esempio parlavo male di una persona, magari arrivava proprio quella persona di cui stavo parlando male. E lì non è a caso. Non è a caso. No, è il tuo subconscio. No, è davvero, succede questa cosa. Era una feature. Era una feature dell'Android 2.2. Sì. Comunque, adesso è saltato fuori. C'era l'opzione per disabilitarla. Sì, tu andai nelle opzioni, impostazioni, messaggi, sputtanamento. Devo togliere quella. Io guarda un po' che ho cambiato gestore di messaggi. Perché c'è un gestore di messaggi? Sì, un gestore, un programma, un'app che gestisce i messaggi. C'è un'app? Forse un'app anche per quello. Un'app... K. Un APK. APK sono i pacchetti di Android. Application K. Per piacere. Prego, torniamo a voi. Allora, Android. Android è quel sistema operativo che qualcuno conosce, funziona, gira bene. Sì. Oramai la maggior parte dei smartphone sono venduti con sto cacchio di Android. Funziona, ci sono tutti i bei programmi. Problema, la signora Microsoft, la M, ha chiesto a tutti quelli che vendono Android la M. Quella di James Bond. Poi vado su dalla M che gli devo dare una roba. Comunque ha chiesto dei soldi per ogni dispositivo venduto. Per ora solo HTC ha detto pago. Sì, per delle licenze, giusto? Sì, per il discorso... ci sono delle tecnologie Microsoft utilizzate. Allora, hanno fatto dei brevetti su, mi pare per esempio, l'icona della batteria. Sì, o sì. Altre che... la pasta al pesto. Delle cose, diciamo che, vabbè, come dire, nel senso... la però, scarpa con il tacco davanti. Può essere. E la signora M, la chiameremo M, ha... chiesto dei soldi. HTC è l'unica che per ora ha pagato, tutti gli altri hanno detto ma che stai a scherzare, e quindi paga adesso... mica male tra l'altro HTC, si parla di $5 a terminale, $5 a tocco. Forse... sì, però stiamo parlando di una cavolo di ditta che quando era uscito Android ha detto no, noi solo Windows Mobile, hanno fatto contenti tutti, infatti un po' di soprattutto la Microsoft Che prende più soldi da Android che da Windows. Comunque, 7. Notizia dell'ultimo minuto, abbiamo un'agenzia, Windows Phone 7 sta spopolando, è all'1% di share negli Stati Uniti. E per quello che lo stanno infilando dentro in pubblicità nascosta in tutti i telefilm possibili e immaginabili. Perché tu guardi i telefilm? Sì. Possibili e immaginabili. Oltre a vedere frammenti di film a carattere pornografico all'interno di film normali, vengono inseriti alle volte frammenti con smartphone con Windows 7. No, ma basta un secondo, una flashata. Sì, una flashata, un fotogramma, due. Il fatto che si vede un telefono e vicino c'è una casa con le finestre non vuol dire che è pubblicità occulta. No, di solito si vede un telefono e si capisce chiaramente che non è Android. Perché c'è la schermata blu. No, ci sono... cose, è vero. Blu. Comunque, adesso vedremo cosa succederà, però... noi teniamo duro, non comprate HTC, comprate qualcos'altro. Però HTC nel frattempo... cosa ha fatto? Ha deciso, con una mossa sorpresa... what the? Che i prossimi telefoni, i prossimi venturi avranno il bootloader sbloccato. Sbloccato? Per cui nessuna criptazione sulla ROM, per cui si potrà nessuna installare... nessuna firma né niente. Esatto, non si potrà installare un po' quello che ti pare. Ci sono società che già lo fanno e non dicono niente a nessuno, però loro intanto così... chiudete le orecchie ai bambini. Cazzo, ficata! Ok, riapritele pure. No, carina. Di solito le altre case invece fanno in modo di far uscire dei bootloader che tu puoi installare, non so, per esempio sfruttando dei bachi, dei driver di Windows. Dici che fanno proprio in modo? Di solito sì. Però della serie, io te lo lascio aperto. Però se lo fai decade la garanzia. Certo, quello poco ma sicuro. Ma tanto chi se ne, nel senso... invece HTC ha capito che su 100 utenti che comprano il terminale 1/2 fanno questo lavoro, quindi si può permettere anche di farsi pubblicità nerdosa. Ma sì, ma poi la cosa interessante però che nel frattempo Google sta lanciando la sua piattaforma di noleggio dei film su piattaforma mobile. Come al solito, esatto, che è un casino, ma è bloccata per gli utenti di ROM non ufficiali. Ah, tu utente quindi di ROM Google non ufficiale, cosa sta facendo? Google sta lanciando questa piattaforma di noleggio di video, di film, sì, per dispositivi mobili, quindi Android. E i dispositivi Android con una ROM non ufficiale non potranno accedere al servizio. Perfetto. Una cagata. E per rimanere in tema di lancio di servizi televisivi, stanno uscendo le prime... vediamo il servizio. Stanno uscendo le prime applicazioni per televisori, soprattutto per i Samsung, comunque le Net TV in generale. E, per esempio, è nata una emittente televisiva italiana, una sorta di bouquet. Si può dire così? Sì, Italiano, con un sacco di canali tematici che funziona via internet. Sarà possibile vederlo su televisori Net TV, soprattutto i Samsung perché hanno l'applicazione apposita. E sarà possibile anche vederlo con dei lettori Blu-ray, se non erro, Philips, altre marche. Cioè fanno stream via internet. Esatto, e si può vedere anche sulla TV, sul PC. Come si chiama il servizio? Non me lo ricordo più. Bene, ottimo, sempre puntuali nelle nostre informazioni. Lo chiameremo XXX. Però lo segnaleremo magari nella descrizione, Ital TV, qualcosa del genere. Certamente troverete tutti i link a queste notizie sulla pagina del sito del Gelecomo dedicata a questa fantastica puntata di Opencast Alpha. www.gl-como.it anche in HD. Certo, ma sì, perché va di moda. Il sito in HD. Aspettate, fermi, anche in 3D. Bravo, così ti voglio. Ecco, Dolby Surround. No, roba vecchia. Dolby Digital 7.1 DX. 1, 2, 3, stella. Esiste il Dolby Digital DX? Sì. Che so. Sì, DTS. Sembra un po' una super cazzola. DTS però. HD audio. No, abbia pazienza. Le dice qualcosa la parola vice sindaco? Vice sindaco. Vabbè. È grave. Come se fosse Antani. Se fosse Antani, ha capito. Una super cazzola. Esatto. Comunque. Parliamo di qualcosa di serio o cazzeggiamo tutto il tempo? Io muore. Direi che a questo punto, dopo aver cazzeggiato per ben 15 minuti, Mizzeca. Qualcosa più o meno. Sì. Mettiamo su. Minuto più, minuto meno. Mettiamo su. Potremmo passare al pezzo forte della serata. Ragazzi, non ringraziate. Questo è proprio sei forte. Questo è. Il pezzo si intitola Ciucelo. Ciucelo. Dillo bene. Scusa, ciucelo. E vabbè, ma c'è l'H, come vuoi leggerlo con l'H? Tu che sei esperto della lingua, tu mi leggeresti il titolo? Tu che conosci molte donne dell'est. Questo è russo, ciucelo. Per cui è quello che ho detto io. Beh, allora, voi sì. Che conoscete le donne dell'est. Questa com'è che si chiama? Nataya. Tu che sai la lingua, mi leggi il nome? Ishnaga Brovina. Certo, uguale. Natasha. Natasha. Penso. Irina. Comunque c'era anche un pezzo finisce di Enzo che adesso non posso citare perché sì. Vabbè, dove c'era anche Natasha, Irina, via di e finirà per Enco il cognome di solito. Sì. Comunque, sentitela perché ci sta dentro una PlayStation. Alzate il volume, abbassate il finestrino, fermate l'autobus e salite sul tetto pronti per ballare questo fantastico pezzo. Mi raccomando, и роща будто зритель. beh, era un gran bel pezzo, eh. Grandissimo. Qua che ho girato ore e ore e ore per trovarlo. Ecco, ma sei sicuro di essere stato sui siti giusti? No. No, no, anche no. Anche no. Vabbè, questa era aspetta, aspetta. Questi sono gli non so leggere il cirillico. L'album si intitola Nastya Yanastya. No, quello è il nome di lei. No. Dici di no. No, è il titolo dell'album. Titolo dell'album. Rasta. No, forse Rasta. No, forse è la traduzione di quello prima. Siamo molto portati noi per le lingue in Open Castalfa, infatti ce ne freghiamo altamente. Comunque ragazzi, ripetete. Shushalo. La C del cirillico si leggesse. Eh? La C del cirillico si leggesse. Sappiamo qualcosa di nuovo, grazie. Comunque, la P si leggera. Se volete altri consigli musicali, continuate a seguirci e vedrete che robe. Vedrete che robe. Oh, ma poi l'ha detto in una maniera che non è che sia qua a tagliare gli angoli ai toast. No. Non è che non sia mica qua a smacchiare i ghepardi. Non sia mica qua a cotonare capelli ai pù. Insomma, non è che. Comunque, parliamo di cose serie. Parliamo di gnocca buona. Gnocca buona. Allora, se viene Cesenatico. Oh, ragazzi, ragazzi, se venite a Cesenatico, cosa troviamo? Cosa troviamo? Abbiamo la gnocca buona e il wifi gratuito. Wifi. Perché l'hanno portato a Cesenatico. Come hanno fatto? È un progetto. Con la carriola. C'hai un po' poco l'accento di un Cesenatico. Devo tornare su. Hanno portato il wifi gratuito perché praticamente c'è questo progetto del Wired, che è un giornale che salutiamo, che ha portato wireless in molte città italiane. Ti arriva ancora la coppia omaggio a casa? Non è omaggio, me l'ha regalata, non l'ho pagato io. È omaggio. Non è omaggio, è omaggio per me. No, perché fai la pubblicità ogni volta. Salutiamo Wired. Hai visto? Grande rivista, bella, bella, alternativa. Secondo però me se qualcosa gli viene. Però meglio ascoltare Opencast. Non lo so se c'è wifi a Cesena, alla pensione rosa sicuramente. Ma sì. La pensione rosa come tutti gli anni. Ma la pensione rosa è bellissima. E tu stai lì, dormi, poi esci fuori, c'è la gnocca buona. Gli offri una pizzetta, non pensare niente di che. Sei a posto. E c'è la gnocca povera e la gnocca ricca. Se vuoi quella ricca, c'è anche il Vieri e quella gente lì che c'ha la gnocca ricca attorno. Ma c'è anche la gnocca è povera, ma è buona. Attenzione, non è che sia qua mica a togliere gli affreschi dei muri. Esatto. Hai capito? Beh. Bene. Vogliamo tornare un attimo in carreggiata? Ce la faremo? Non lo so. Io direi che non ce la faremo. Possiamo fare. Voi dite quello che volete dire, ma io devo dire. No, io voglio dire una cosa. Io direi che dalla prossima puntata. Dalla puntata numero 8. No, la prossima puntata invece di essere la 13 come sarà. Ma, chi può dirlo? Saltiamo e facciamo la puntata 20. 20? Sì. Sì. Perché? Perché è giunto il momento. Ma come è giunto il momento? Perché è già abbastanza tempo che andiamo avanti a fare Opencast. Ma è giunto quanto il momento tempo di cambiare. Sarà? Dal 96. Oh, no, è un po' meno del 96. Ah. Non siamo mica come Linus col kernel. Mi fa molto kernel. Linus? No, kernel. Kernel è un amico suo. È un amico. Mi fa sempre dietro. Allora, la prossima versione del kernel sarà la 3.0, sentite? Come la 3.0? Me ne sono perso qualcuno. Questo salto generazionale a cosa è dovuto? Cioè, ragazzi, così, stiamo... Esagerato. Dove sono finite le versioni del kernel? La 2.8? La 9? Manca. La 9? Manca. La 7? Manca. La 6? C'è. Da un bel po'. Forse c'è anche la 7. Anche la 7 c'è. Di sviluppo. Ha deciso che la prossima versione stabile sarà la 3.0. 3.0. Perché, detto lì, mi ha detto che è il momento di cambiare un po', di dare una svolta al. La prima volta che ho installato un kernel 2.6, sì, anch'io. Non è più ripartito. No, tu pensa, la prima volta che ho installato un kernel 2.6 è stato veramente una figata, perché prima andavo avanti col 2.4, dove dovevo compilarmi a ogni aggiornamento dei driver che avevo in giro per far andare un po' di cosine, invece col 2.6 andava. Io saluto il 2.4, saluto la distribuzione Core Linux, che grazie a Dio non esiste più, perché la prima volta il mio approccio a Linux è stato installazione, riavvio 010101 all'infinito sul BIOS. Che figata! E lì imparai a smontare un hard disk per formattarlo su un altro computer. Vedi che sono cose che ti tornano utili? Tornano. Sì, soprattutto a noi, perché da allora non ce lo siamo più schiodati. Volevo farlo sapere. Di torno. No, da allora ci smonta gli hard disk per formattarli. Smonta gli hard disk a tutti. No, ma perché stai smontando il computer per l'Opencast? Anche la mia amica, gli monto certe partizioni quando c'ha bisogno. Dico, guarda, vengo a casa tua, smontiamo l'hard disk e ti monto la partizione come la vuoi. Poi c'è una mia amica che è un po' grossetta e mi monto la partizione FAT che mi piace un po'. Oh, signore Dio. Un po' di più. Poi dipende. Lei c'ha una sorella, gli faccio la 16. Lei è un po' più, invece un po' più maturotta, gli faccio la 32. Capito? Fai attenzione perché a seconda 16, di... una partizione in FAT 16 è un pochino è un po' al limite della legalità. No, è proprio diciamo che proprio fuori. Illegale. Esatto. E vabbè, allora niente. Passiamo a NTFS. Volevo salutare Miranda. Ma novità del kernel 3? Giusto, novità del kernel 3. Nessuna. Come nessuna? Cioè, nessuna grossa novità. Ma come nessuna? Ma stai scherzando? Grossa novità. Ma ci sono i driver per la Kinect. Vabbè, la Kinect. Kinect. Allora scusa, vale la pena. La Kinect. In però questi giorni leggevo i commenti su internet a questa notizia. C'era gente che si auspicava per il 3.0 una riscrittura totale dell'architettura del kernel. Di passare a microkernel, così da e una poi? Versione all'altra. Cioè, sì, bazzeccole, no? Infatti, io punto alla 4 per il 2027. Esatto. Elena avrebbe detto: e beh, cosa ci vuole? Cosa ci vuole? Si fa. Pensa, l'hanno detto anche quelli che stanno programmando hard. GNU hard. Allora, aspetta. È molto dura la situazione qua, eh? Non conosco. Tu conosci? È hard, sì. GNU di meno. Non lo voglio. Sappiamo GNU che tu conosci. Hard è è proprio così. E quindi? E quindi altra notizia dal mondo tecnologico veramente importante è stata questa del kernel 3.0. Io ho una notizia. Vai. Non mi ricordo chi, però vabbè, qualcuno. Stanno spingendo di brutto su questi cavolo di display, tablet? No, il display a LED, OLED. Giuseppe LED. iLED? OLED. Ah, iLED. Giuseppe LED mi piace. Giuseppe LED. Stanno piace. Spingendo di brutto per costruire questi mega... mega ditte. Dov'è che l'hanno fatta? In Germania? Sì, in Germania. Mega ditte? La Samsung. Che sta spingendo per riuscire a produrre fino a 30 milioni, mi pare, di pezzi all'anno. Il problema è che la tecnologia di questi display permette di vedere benissimo anche con luce riflessa, ma dimensioni massimo per ora tablet. Ma parliamo di OLED, quindi OLED. Tu non mi stai sul pezzo. Ho capito LED e basta. No, OLED. OLED andiamo un po' sul fetish, secondo me. Però sul fetish? Sì, un po' OLED. OLED. Picchia qua, baby. OLED. Va bene. Ma questa tecnologia, a dimensione tablet, quindi in 10 pollici. Sì, ma dicono massimo, per cui tutti dicono che cacchio, però per un tablet. Ma invece avete sentito? Ma i consumi come sono? Beh, i consumi diciamo che con un pieno ti fa 200-300 km. Ottimo. Ma avete sentito, a proposito dei 200-300 km, dei nuovi display che hanno il feedback tattile? Chi? Stanno sviluppando dei display che ti danno la sensazione di schiacciare un tasto fisico. C'è un feedback tattile nel momento in cui tu schiacci, non è la semplice vibrazione che c'è adesso. Posso un tasto? Sì, però no, ci piace farlo in un'altra maniera, ci giriamo attorno, no? È tutto una cosa. È proprio da scemi, eh? No, invece e potrebbe tu hai il tuo bel touchscreen e però senti che c'è il tasto. Un tasto? E no, perché poi dopo se cambia lo schermo tu non hai più il tasto. Un touchscreen? Diventerà un touchscreen. Potrebbe essere carina. Nuova tecnologia, tutti riservati. Giallicomo, touchscreen.org. Interessante. Comunque stanno spingendo molti questi cavoli di tablet. Veramente. Adesso ho visto gente cadere per terra tanto che spingono. Mettila. Ai supermercati, guarda. Ah, scusi, ho visto uno. Tutto bene, signore? Sì, mi hanno spinto per i tablet. Ho detto, aspetti che le do una mano. Ci sono le risse per i tablet. Certo. Comunque adesso Asus uscendo con quello nuovo, mano, con la tastiera, touch che c'ha lei. Che alla fine è un computer. Dove con quello con la tastiera che si stacca. Sì, peccato che adesso stanno spingendo di brutto per vendere il tablet, ma la tastiera ancora non si trova. Io voglio l'Iconia, penso che ci stia dentro. Chi è? È doppio display Acer, un display ci vedi la tastiera se vuoi, l'altro display ci vedi il display se vuoi, e sono tutte e due touch. Lo apri, lo chiudi, eh? Lo apri, lo chiudi. Frigo. Mica male. Frigo. è un doppio schermo che si piega su un libro e poi aprirlo libro. E uno dei se due schermi la tecnologia tattile sul tattile. Uno dei due schermi non sarebbe neanche male. Ma voi state aspettando, io voglio anche il sound che fa, no, voi state aspettando questa tecnologia tattile per perché ho un'ideuzza che secondo me ci potrebbe far fare dei soldi. Allora noi iniziamo a buttarla lì, è un nostro copyright, quindi portate qua i soldi. Allora immaginate un bel video, come si dicono quei video, dai new. Loris. un po' pop. Che quindi diciamo ha dei certi contenuti, no? È un pop up, il pop up corno è un po' pop. E quando voi toccate l'immagine, diciamo che avete la sensazione, com'è la sensazione? Tattile. Ma fa anche il suono del tasto. Immagina che tasti. E uno tocca, sente una certa tattilità. Ragazzi, ma sapete quanto vi costa comprarvi una tecnologia del genere? Cioè, vi fate 10 giri di giostra, ve lo assicuro. Quanto costa il giro di giostra? 6.000, non lo so, io 6.000, non so cosa costerà franchi. Un giro di giostra. Un giro di giostra, 50 in macchina. 50 in macchina? Ma ci metti anche la macchina? Tua, sì. Okay. Ma se tu esci invece su bosco, quanto fa? Ah, su bosco anche di più. Mi piace su natura, perché... Di più. Senti, ma Kinder Sorpresa? Spesso e volentieri. Io ho paura perché ha visto con un amico l'altra sera, ha detto, quella ovvero è quinta. Io dico, sì, di cazzo. Detta così molto brutta. Siamo arrivati nella zona fine della trasmissione. Sapete, mandate a letto i bambini e sapete, certo, che a questo insomma ormai... verso la fine diventiamo molto fini. A una certa. Io direi che a questo punto, visto che abbiamo detto le nostre cavolate a sufficienza, con notizie di un certo spessore, notizie di un certo spessore, affrontate con un certo spessore. Abbiamo parlato. Mi piace perché ci stiamo parlando tutti sopra, non si capisce un cazzo. Ma non ti preoccupare, poi ci dividono. Non ti preoccupare. Sì, dopo arrivano quelli. No. Non ti preoccupare, è una delle puntate più brillanti di sempre. Arrivano quelli. Te lo assicuro. Lo ascolterai domani. Quella dove avevamo usato certe sostanzine lì, il Dixan. Quella sì che rendeva. Va bene, io chiuderei con, perché visto che la puntata sarà stata una delle più brillanti che abbiamo fatto. Sì. Chiuderei anche Chief. Anche Chief. Sì. Perché? Per brillantare tutto. Certo. Io chiuderei ricordando che questo è Opencast Alpha, che potete trovare tutte le puntate sul sito del GL Como, www.gl-como.it, dove troverete appunto tutte le puntate, tutti i link alle notizie, tutti i link alle musiche in Creative Commons che vi abbiamo fatto ascoltare. Lascia fare. E a questo punto io chiuderei con un bel party. Party? Non nel senso di esatto, non nel senso di party vai, nel senso di festa. Party? Niente, Martini. Vai con la festa! Sulle mani! Siamo pronti? 1, 2, 3, 4. Scusa. Su? Scusa. C'è la sigla. Avete ascoltato Opencast Alpha, il podcast tecnologico disimpegnato del GL Como. Tutti i link e le puntate su www.gl-como.it.